Radio 24. Libera la voglia di fare. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Eccoci qui anche questa domanda. Buongiorno. Di che cosa parliamo oggi? Di che cosa guardi, ne abbiamo già parlato un'altra volta. Tanto buongiorno a tutti gli ascoltatori, continuate a scriverci. Buongiorno. Chiedimi se sono felice, @radio24.it, perché come vedete noi poi vi telefoniamo, vi vogliamo coinvolgere in radio, a parlare proprio direttamente con voi. Anche chi non è d'accordo con noi, perché la cosa che mi sorprende è che ci scrivono quasi tutti quelli che sono d'accordo con noi. Non riusciamo ad avere delle controparti con cui creare dei dialoghi stimolanti e che possono aiutare anche quelli che ci ascoltano a capire meglio, certo, come stanno veramente le cose. Quindi veramente noi saremo felicissimi di poter parlare anche con le persone che non condividono il nostro pensiero, dati alla mano. Però sì, io qui c'ho il dottor Vaira, che ovviamente è abbastanza esperto. Io sono la capra e lui è quello. Ma cosa stai dicendo? Andiamo avanti. Il caprone. Io sono il capobranco e tu il caprone, sei... ho detto. No, ho capito, il capobranco e tu sei la sottomessa. Allora, sì, boom, l'allero. Però ogni tanto fare il gioco della sottomessa e il capobranco. Adesso esagera, che se sente la trasmissione di mia mamma mi telefona poi. Vabbè. Bon. Allora, oggi parliamo di una cosa di cui avevamo già discusso nelle domeniche passate, domeniche fa, non mi ricordo quante, però magari cambiano gli ascoltatori, la domenica uno va in vacanza, è un argomento di cui spesso sento fare delle osservazioni, tipo questa domanda: perché i cani si annusano il sedere e noi no? Ad avvolta. No, e noi no, l'ho aggiunto io, la domanda ad avvolta. Ma quest'articolo l'ho trovato molto esaustivo, si dice? Ma non abbiamo già parlato tempo fa? Ma l'ho appena detto, sì, però okay. Questo l'ho trovato. Ero disattento. Molto esaustivo, si sente. Allora, dovete sapere che a casa Vaira è sempre disattento. Ma cosa stai dicendo? Ma io qui ho mille articoli a cui devo star dietro, ma non è vero. Vabbè, cosa... Beccati, ma non sono sempre disattento. Sempre. Dico una cosa, non mi ascolta, fa sì con la testa, è più attento mentre dorme. Anche Carmelo dice. Carmelo, che ne sai tu? Cosa gli vai a dare ragione? Quando, che quella se ne approfitta. Anche lui dice che anche lui è così. Ah, anche tu sei così. Quando io dico una cosa a Carmelo mi dice sì, ma non mi ascolta. Ah, anche okay, lui. Okay. Rimetti la sigla di Sandra del Mondo. No, vabbè. Allora, qui dice. Perché i cani si annusano? Cioè, no, adesso, dai, avanti, discutiamo. Perché è come se leggessero e capissero il mondo attraverso gli odori. Esatto. Giusto? Sì. Si annusano le labbra, le orecchie, i genitali e la zona anale. Ecco, non soltanto, ma anche il solco intermammario, mia cara. Veramente? Eh sì, certo. Vedi che facciamo meno a dirlo, perché tu poi completi i servizi. Io completo parti sempre del i servizi. Corpo non che ne lascio nessuno aperto. Parti del corpo che emanano secrezioni odorose in grado di fornire molte diverse informazioni attraverso i... I? Vediamo se lo so. Io lo so perché c'ho il giornale. I feromoni, sostanze chimiche che cambiano a seconda della condizione sociale, emotiva, sessuale del cane. Ecco, bravo. Allora, l'informazione invece importante, che tutti quanti sappiamo che i cani quando si annusano il sedere vogliono capire l'altro chi è, ma non sanno soltanto chi è l'altro, cioè non c'è soltanto una memorizzazione di chi è quel cane lì, ma c'è anche un capire come si sente in quel momento. Esatto. Quali sono le sue emozioni, in che stato è? E questo, sai, gli aiuta a sviluppare status sociali, a regolarsi. Quindi l'olfatto arriva prima, è un sistema di comunicazione molto efficace, proprio in comunicazione in quel momento, non è soltanto un chi è questo. No, ma difatti noi adesso abbiamo iniziato la puntata ridendo, ma stiamo parlando di cose serie e importanti. Cioè, pensate che attraverso l'olfatto del cane, abbiamo parlato in un'altra puntata, magari lo faremo ancora, si riescono ad individuare delle malattie per noi uomini come il tumore alla prostata, alla mammella, ai polmoni. In Inghilterra sono tanti anni già che lo fanno. Noi avevamo intervistato il cancro della pelle anche. Vedi, il cancro della pelle. Quindi l'olfatto per un cane è molto importante. La differenza fra le ghiandole olfattive nostre e quelle del cane? Noi 5 milioni, il cane 250-300 milioni, a seconda anche delle razze, perché cambia anche in base al numero delle razze. Poi c'è un'area del cervello deputata ad elaborare queste informazioni che è più sviluppata della nostra. Esatto. Quindi il punto è, quando un cane, per esempio, vi annusa i pantaloni quando voi rientrate a casa, quello sta sentendo dove voi siete stati. E tra di loro i cani, quando si incontrano, non si annusano, usano soltanto il sedere. Se ci fate caso, si annusano i padiglioni auricolari, il muso. Sì, difatti l'ho detto all'inizio. Sì, fra l'altro, il cane ha bisogno di annusare una persona per capire bene con chi ha a che fare e se si può rilassare o affidare. Ecco, vedi. E poi l'altra cosa importante è che sai che spesso le persone per farsi annusare dal cane allungano la mano. Ecco, questo gesto a volte è interpretato come una minaccia da parte dei cani. Qualcuno se ne sarà già accorto. Allungo la mano, il cane si scansa o addirittura solleva le labbra come per dire ma che cosa stai facendo. Allora, aspettate che sia il cane ad avvicinarsi, anche perché è inutile avvicinare la mano. Non è detto che è sempre sbagliato, per carità, per alcuni cani può anche andare bene, però il cane sente già il tuo odore e se ha bisogno di capirti meglio, si avvicina e ti annusa i pantaloni, per esempio. Ma è vero che i cani possono avere distinto subito loro delle simpatie verso qualcuno, delle antipatie? Ma assolutamente sì, esattamente come noi. E questo lo percepiscono attraverso l'odore, vedono una persona? Anche, ma questo non succede soltanto nei cani, succede anche in noi esseri umani. Cioè l'olfatto pregiudica alcune relazioni, con qualcuno. Quando noi diciamo è una questione di chimica, è vero, cioè l'olfatto gioca un ruolo importantissimo. Quindi occhio a coprirvi troppo il vostro odore, l'odore della pelle, per esempio, con profumi troppo forti. Vabbè, non dico niente, me la stai servendo su un piatto d'argento, comunque non dico nulla. Io ecco, sugli ti odori, ho già letto nella mente. Esatto, non diciamo nulla. Comunque, io sugli odori potrei rifiutare Brad Pitt se avesse un odore. Ma non sei l'unica. Cioè, perché per me sono ma io addirittura sul mangiare, io faccio fatica a mangiare qualcosa che per me ha un odore sgradevole. Io sono fissata, cioè io a casa se qualcuno viene a cena da me dimentica una sciarpa, un cappotto, un cappello, una giacca, per capire di chi è io l'annuso. Figurati. Per capire se il mio uomo mi ha tradito quando io non ci sono, ve lo giuro, non è una battuta. Quando torno a casa che non ci sono stata da un po', annuso il cuscino, il letto e i divani come un sogno. No, amore, ecco. Sembra una battuta, ma è vero, eh? Vedi, ma c'era la mamma di un ragazzo, non mi ricordo chi mi aveva raccontato questa cosa qua, che per capire se aveva bevuto lo annusava quando rientrava a casa. Vabbè, quello è facile, però ha bevuto, se uno ha bevuto lo sento lontano un miglio. Sì, vabbè, insomma, però insomma lo annusava per capire. Sì, che sì. Cosa. Comunque no, allora, quindi vedi che è stato utile rifare un attimo questo discorso perché l'abbiamo anche Brava completato. Brava Rosita Celentano, ottima idea, guarda, grazie. Veramente ottima. E tra poco ci vediamo e ci sentiamo con altre notizie speciali. Ci vediamo noi. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Guarda Angelo, sono felicissima, oggi sono riuscita a rintracciare una persona che era tanto che non sentivo, ma che a me piace veramente tanto. E adesso ci mai? Facciamo raccontare da lei tutta la loro storia, però partiamo subito, presentiamola subito con la nostra super sigla speciale. Ed è con noi Carmen Russo. A Carmen Russo. Buongiorno. Che sigla, buongiorno a tutti. Hai ciao visto? Rosita, ciao Angelo. Te la meriti, come stai intanto? Benissimo, bene, felice, contenta. Insomma, sto vivendo un periodo della mia vita, della nostra vita, perché sai, noi, io e Denzo condividiamo tutto. Bravi, fantastico. Bello. E scommetto che questo valore aggiunto c'è da quando è arrivata Maria. Certo, lei è la nostra regina, principessa, è quello che ci dà la forza per affrontare qualsiasi cosa nella vita, il vero senso della vita. È vero, è vero che si capisce, poi quando si è più grandi si riesce a condividere il tempo con i figli in un modo molto più presente, sicuramente anche perché c'è chi ha la fortuna magari di fare dei lavori dove se li può portare i figli o viverci di più e non avere stare tanto bravissima. Fuori casa, no? Sì, è vero. Io sì, certo, l'età non è proprio un grande vantaggio, però è un grande vantaggissimo per stare con lei, perché adesso io ho molto più tempo, me la vivo, io è dentro, e però nonostante tutto quando dobbiamo fare i programmi che andiamo in giro, viene con noi e si diverte tantissimo. Amore. Sì, ma certo. Senti, ma io ti chiamavo, non è a caso che io ti ho cercato, ho voluto, a parte mi fa piacere risentirti con la scusa di fare una chiacchiera radiofonica, perché io mi ricordo di te che sei una grande amante degli animali e che hai salvato da canili e portato a casa tanti cani negli anni. Sì, sia dai canili ma anche sulle strade, perché sembra che gli animali ci aspettino, aspettano quelle sì, e quindi ne abbiamo salvati tantissimi negli anni, perché poi è una cosa che anche a Enzo, anche a lui piace ed è una passione, ma soprattutto è un senso civico, secondo me, un senso di rispetto, di cioè l'essere per me, per noi gli animali sono esseri viventi. Certo. Ecco, e quindi quanti ne avete adesso di cani? Avete solo cani? No, abbiamo cani, gatti, tartarughe, però diciamo che ho una serie di chihuahua, perché abbiamo iniziato, poi hanno fatto i figli, poi non li volevo dare a nessuno e quindi ce n'ho un pochino, però ho un 15-16 bastardi, meticci. Ah, ammazza, 16 in totale o 16 meticci più i chihuahua? 16 più chihuahua. Ma fischia. Ah, fantastico. Un oasi felice. Senti, ma il rapporto con Maria, con tua figlia e tutti i cani? Ma è meraviglioso, Rosita. Io ricordo quando ero incinta che mi dicevano e adesso dovrai sistemare tutti i cani perché lei non può vivere. Ma lei da quando è nata, esatto, ha vissuto subito con i cagnolini e lei è cresciuta, le ho insegnato tante cose, rispetta moltissimo gli animali e gli animali rispettano lei. Ma certo. Io, guarda, ti racconto un episodio al volo. Sì, certo. Un cane bellissimo che abbiamo chiamato Bisteccone, un tipo pastore alto, proprio snello, c'ha fra qualcosa da caccia anche, trovato a Palermo, l'abbiamo portato a casa, anzi lui ha cercato Enzo, perché noi a Palermo abbiamo un'accademia di danza, Energy Dance, e lui è entrato dentro e non si è più mosso, ecco, l'abbiamo poi portato a casa. Tu non puoi immaginare questo cane che è con noi da un mese, come si comporta, l'educazione, l'intelligenza, si è inserito con gli altri animali, sta con Maria, però è un po' grande e appena lei arriva la saluta ma senza neanche toccarla, è lei che glielo prende, ci gioca in maniera educata, perché i bambini Fantastico. Devono avere questo rapporto, è bellissimo, è bellissimo. Ma e infatti, poi sappiamo... Allora io ne approfitterei anche per chi ci sta ascoltando di sottolineare questa cosa. Tutta quella preoccupazione che c'è dietro una coppia che sta per avere un bambino, no? Perché non è la prima volta, non sai quanti miei amici, clienti, eccetera, mi dicono non hai idea adesso i parenti. E no, ma adesso il cane lo dovrai mettere in giardino, dovrà vivere sul balcone, lo dovrai allontanare dal bambino. E invece è tutto il contrario, ci sono delle ricerche che mostrano come l'intelligenza emotiva e sociale dei bambini aumenti quando loro vivono con un cane, così come anche il sistema immunitario si rinforza. Quindi grandiosi, grandiosi. No, guarda, ma è vero, ormai è da sfatare questa cosa, è da sdoganare. Gli animali non portano malattia, gli animali anzi portano energia positiva, salute, tutto. E poi Maria capisce che è un essere vivente, il rispetto gli dà da mangiare. Poverino, gli dice quando andiamo fuori 2 giorni e poi ritorni, mi siete mancati tanto. Ma che tesoro. Ma vedi però, sai, cioè, quello che sta imparando Maria è veramente un grande rispetto e ad amare il prossimo e a sentire, avere empatia e quindi preoccuparsi per il prossimo. Cioè tua figlia è una bambina veramente fortunata anche sotto questo aspetto. È da pochi aspetto, minuti che capito? Stai parlando, però si respira un'atmosfera di così grande amore, probabilmente derivante anche dalla vostra coppia, che io percepisco, come immagino moltissime altre persone, proprio come una coppia unita, contornata d'amore e via dicendo. Questa bambina sta crescendo in un'atmosfera così nutriente, così bella da questo punto di vista, e poi l'espansione verso gli animali, insomma veramente un'oasi felice. Bravi. È vero, no, bravi, insomma noi siamo così, quindi cerchiamo solo di essere noi stessi e basta. Adesso sai, poi con tutti i social, io sulla pagina Facebook ho tante richieste d'adozioni, condivido tantissimo e mi dicono che è importante. Ad esempio ultimamente abbiamo preso da in un canile a Foggia un chihuahua che ha problemi neurologici e non ci vede, e non vede, gira. Vabbè, però da quando sta con noi si è calmato, è riuscito a trovare un pochino più di equilibrio e adesso sto facendo anche delle cure per capire, delle visite ai veterinari per capire se può migliorare ancora. Poi abbiamo preso un'altra cagnetta che si chiama Brooke, è una tipo simil pastor tedesco, più piccola, che anche lei un po' è idrocefala, perché io vedi, io quando vedo delle immagini dei canili, io vorrei fare un appello e dire cercate di adottare chi ha problemi, sì. I tripodi, i nonnini, i vecchietti, perché si sentono delle cose di famiglie che tengono i cani per 11 a 12 anni, poi quando sono anziani li mettono in canile. Cioè io lo trovo veramente crudele, assurdo. E lì quindi, quando l'animale è percepito come uno strumento per far piacere a noi, mentre noi diciamo sempre, vedi, chiediti se il cane è felice, cioè la cosa che tu devi fare quando adotti è chiederti cosa posso fare io per questa vita. Allora, se uno di noi prende l'ambiente che è attorno a sé, lo rende un posto migliore, risveglia delle attitudini, secondo me è un modo di fare che veramente può cambiare le cose. È vero, benissimo. Il mio cane, sai che è un cane disabile? Infatti, dire. Ma certo, io sono più per questi, per chi ha veramente problemi, necessità, ma come anche per gli esseri umani, è ovvio. No, perché c'era anche questa tendenza in cinofilia, soprattutto per gli addestratori, no? Di prendersi il cane di razza, super performativo e via dicendo, perché dovevi vincere le gare, cioè il cane super, no? E io mi sono detto, ma no, ma l'educatore cinofilo deve occuparsi anche, se non soprattutto, di quei cani che hanno bisogno. Quindi sono contento di trovare anche in te questa testimonianza oggi. Sì. Cosa. Sicuramente. Senti, le soddisfazioni che ti danno questi animali, no? Ne vogliamo parlare, il senso di gratitudine, sono molto più affettuosi degli altri. Sì. Senti, certo. Carmen, ma se c'è qualcosa che tu da uno dei tuoi cani o dagli animali in genere hai imparato? Cioè, se noi li eleggiamo a maestre, no? Diciamo, che cosa mi hanno insegnato gli animali o che cosa me ne ha insegnato uno di loro? C'è qualcosa che ti ricordi, che ti fa piacere condividere? Non so. Ma guarda, episodi ce ne sono tanti, perché l'istinto degli animali è pazzesco. Io ricordo che una volta avevamo una cagnolina meticetta piccola, piccolissima, Molly, e questa cagnolina, noi stavamo per uscire dal cancello della casa e lei ci abbaiava, ci rincorreva, ci chiamava la nostra attenzione. Niente, si è portato giù nel giardino e in piscina erano caduti dei cagnolini che avevamo là. Cioè, guarda, una intelligenza, un senso proprio. Loro, gli animali, sanno dove, come farsi capire. E questo è stato, ma poi ce ne sono tanti altri episodi. C'avevo un altro cane che quando io nuotavo veniva lì vicino e mi prendeva a morsi i capelli per tirarmi su. Ma delle cose. Poi c'è il nostro tipico storico cane Energy, che adesso ha 16 anni, che quando noi siamo rientrati dalle isole, tu non puoi immaginare la gioia che ci dimostrava. Che tanto. Ma la cosa bella degli animali, secondo me, e che loro ascoltano tanto e intervengono quando è il caso, e questo dovrebbe essere una cosa che gli esseri umani dovrebbero capire. Sai, credo che noi dobbiamo imparare tanto da loro. Angelo dice anche che noi siamo debitori nei confronti dei cani, noi esseri umani. Sì, ma proprio storicamente cioè proprio la nostra evoluzione è stata accompagnata dall'alleanza con il cane. Abbiamo avuto un vantaggio evolutivo sull'uomo di Neanderthal. Attraverso il cane, quindi figura, abbiamo un debito storico veramente grosso. Senza contare che ora ci aiutano anche con le malattie, perché abbiamo parlato in radio spesso di cani che individuano molto. Intanto fanno bene alla salute e non ti fanno ammalare, ma aumenti, che riescono a scoprire il tumore alla prostata, per esempio. Come no? Sì. Quindi sono, ci accompagnano, ci aiutano in tutto e per tutto, e noi dobbiamo veramente rispettare. Dobbiamo rispettare qualunque specie vivente, indistintamente. Ecco, l'altra volta abbiamo scherzato qualche puntata fa parlando della prospettiva della cimice, no? Perché abbiamo avuto l'invasione di cimici, quindi la gente si chiedeva ma perché esistono, e noi abbiamo detto perché sono bravi a farla, in biologia è questo il motivo. E quindi vorrei ricordare qualcosa, che il valore di un animale non si misura attraverso quanto lui ti è utile, cioè tu è meglio che lo rispetti proprio perché è, anche se sei diverso da te, anche se non ti è utile e via dicendo, proprio per lui, per il fatto che esiste semplicemente. Anche perché se ci dovessimo chiedere a che cosa serviamo noi esseri umani, stiamo sfasciando il pianeta, quindi siamo i primi a non dopo. Carmen, senti, sono strafelice. Siamo un brutto esempio, esatto, ecco, rispetto sono, a loro. Sono strafelice. Per la crudeltà, per tutto, perché i gesti crudeli vengono fatti tanto, spesso dagli esseri umani. Per la meschinità e non nostra, sì. Poi il cane ci ama, che siamo belli, brutti, giovani, ricchi, vecchi, insomma. Brava, insomma. Senti, Carmen, grazie di aver grazie, di essere stata energia. Con noi. Grazie, quanta energia. Mi ha fatto un sacco piacere di sentirti. Ti manderò il mio numero, così quando siamo nei paraggi, grazie, magari ci veniamo a trovare vicendevolmente. Salutaci. Volentieri, tutto il branco, marito, tutto il figlia, anche cani. Loro vi salutano. Grazie. C'è tutto un abbaio generale. Grazie anche un da saluto e complimenti per questo bel programma. È un messaggio meraviglioso. Grazie. Dai un abbraccio anche a Enzo Paolo. Grazie. Ciao, ciao. Ciao Carmen. Ciao, ciao, ciao. A frappè. Un frappè. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Good Tomlinson, good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour Julie. Bonjour. Aus antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. O vi aspetto, è dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega? Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Oh, siamo qui adesso. Purtroppo. Allora, l'altra volta ero in taxi e un tassista mi ha raccontato una triste storia. Abbiamo con noi sua moglie Adriana al telefono. Buongiorno. Buongiorno. Salve Adriana. Allora, buongiorno Adriana. Allora, so, buongiorno. So che purtroppo qualche mese fa avete perso un cane, un bellissimo chihuahua, in un parco perché avvelenato, giusto? Esatto. Ecco. A Parco di Corsico. Esatto, Parco Verdi. Ecco, quindi Verdi. Quindi intanto Verdi. Cominciamo a segnalare questa cosa qui, state attenti. A Corsico c'è soltanto, ecco, area, come detto? Verdi. Verdi, ok, quel parco, esatto, lì. Segnaliamo, se siete di Corsico, passate da quelle parti, attenzione a quel parco lì. Che cosa è che è successo precisamente? È successo che l'ultimo giorno che ho portato giù i miei cagnetti, perché avevo sia il padre che il figlio. Sì. E il figlio è quello che è morto di un anno e mezzo. Uh-huh. E il giorno dopo, il sabato, ho iniziato a vedere che soffriva, aveva mancanza di respiro. Sì. Ho chiamato subito la veterinaria, uh-huh, che poi è anche amica, uh-huh, e mi dice: Adriana, per me, secondo me, Jerry ha la broncopolmonite. Uh-huh. Ho detto: strano, ho detto che fino a ieri saltava, giocava tranquillamente. E niente, le ha fatto il suo antibiotico normale. Ecco, figurati. Ha detto: comunque ti voglio, voglio rivederlo. Nel frattempo, di un paio di ore già iniziava a star peggio. Peggio. Certo. Peggio. E poi, tra l'altro, adesso io non sono veterinario, però probabilmente l'antibiotico ha peggiorato le condizioni. No, perché bisogna dargli una medicina specifica, sì, ma poi seconda, bisogna prenderli in tempo. No, no, io dicevo, se tu sì, l'antibiotico secondo me aiuta a star peggio. Quindi cosa avete fatto a quel punto? Alla fine niente, è ritornata il mattino dopo, uh-huh, e ha provato a vederlo come camminava, ma le gambine cominciarono a andare accendere più. Alla fine, un paio di ore ancora, ha cominciato a paralizzarsi tutto. Ma pensate. Non apriva neanche più la bocca. Abbiamo fatto i giri di 3 ospedali. Cioè 3 cliniche veterinarie, no? 3 cliniche, esatto. E il primo non aveva posto, il secondo mi diceva che pensavano che fosse cimurro, che in realtà non lo era, non l'hanno accettato. Il terzo, la clinica San Siro, che sono stati molto bravi. Veramente, su questo non posso dire niente, però mi hanno chiamato. Oramai era troppo tardi. Cioè, troppo tardi. Quello che è successo è che dopo queste peripezie da un ambulatorio, una clinica all'altra, loro vi hanno chiesto di lasciarlo lì in degenza per capire se, esatto, si sarebbe ripreso. Sera. Era sera, mi sembra alle 11, da quello che mi aveva detto suo marito. Bravo, giusto? Sì. E poi all'una di notte purtroppo vi hanno chiamato e vi hanno detto: purtroppo il cane è deceduto. Esatto, e hanno avuto Scusi Adriana, ma io volevo capire, gli avete fatto fare l'autopsia? Com'è che avete avuto la certezza che era stato avvelenato? Per i sintomi erano tutti questi. Dell'avvelenamento. Da lì avete... C'era da troppo, era una cosa più lenta. Avremmo capito i sintomi di avvelenamento di topo, perché lì anche al parco ci sono anche le cassettine queste per i topi, non sì, lo so. Sì. E invece no, i sintomi erano proprio di avvelenamento. No, però perché... quando ero a casa aveva vomitato un pochino e ho visto che aveva vomitato delle cose come se fosse il blister. Però sì, non ci ho fatto caso, perché non mai pensavo una cosa del genere a questo piccolino. E poi vanno sempre in due giù. Diciamo che da questa tragedia vengono fuori una serie di altre notizie che sono abbastanza, insomma, negative. Scopre che non è la prima volta che in quel parco ci sono bocconi avvelenati proprio perché qualcuno mette deliberatamente contro i cani, e lei viene a scoprire addirittura che altri cani erano morti per avvelenamento sempre transitando in quel parco. Sì, perché dopo è stato girato, no? Tramite Facebook avevo messo giù la notizia. E dopo 10 giorni ho sentito che è successo un altro cagnetto. Ma io allora a questo punto mi chiedo, ma il comune è stato allertato di questa cosa qui? Che tante persone hanno portato lì il cane e sono morte avvelenate, questi cani? Non so, questo non so. Io per esempio, forse perché eravamo talmente disperati, piangevamo tutti, guarda che è una cosa... Ma ci credo. Bruttissima. Ecco, non voglio... Se comincio a piangere non finisco più. No, vabbè, ma guardi, io la capisco perfettamente, perché ci rimango male io che la sto vivendo attraverso il suo racconto. Allora, io una cosa che vorrei dire ai comuni, cioè di prendere in mano la situazione, perché fregarsene non è che le cose, i problemi spariscono, anzi si ingigantiscono. Quindi bisogna iniziare veramente a... Ma poi, questo, se effettivamente una persona che mette lì dei bocconi avvelenati per i cani o per i gatti, è un atto di violenza. Come abbiamo detto tante volte, la violenza sugli animali è predittiva anche di violenza sugli esseri umani, e questa gente va beccata. Allora bisogna mettere delle telecamere, bisogna mettere un cartello per avvisare le altre persone. O mettere qualcuno che fa pattuglie e che controlla. Perché questa disperazione che vive Adriana, che avrà vissuto suo marito, che hanno vissuto tutte le altre persone che hanno avuto come vittima il proprio cane, non è giusto che la vivano anche altri. Allora bisogna adoperarsi tutti quanti assieme perché questa cosa non abbia più nessun seguito, che non continui, che non si protragga questa cosa qui. Allora, per far questo dobbiamo unirci, ecco da qui l'intervista su Radio 24, sia per segnalarlo, sia per sensibilizzare i nostri ascoltatori a questo genere di cose, sia per chiedere al comune, ai carabinieri, eccetera, di fare qualcosa. Non è che bisogna fare tanto, basta un cartello. Se poi si vuol fare qualcosa di ancora più intelligente, bisogna mettere delle telecamere. Sì, perché io mi ricordo che, per esempio, un po' di tempo fa era successo anche a Parco Sempione, qualche anno fa, 2 anni fa forse, che c'era stato un'allerta sui social. Sì, hanno messo subito i cartelli. Per esempio, lei, le è capitato di tornare in quel parco, Adriana, e ha visto se hanno messo cartelli? No, assolutamente niente. No, solo che come proprietari di cani, voi che vi siete conosciuti via Facebook, dovreste segnalarlo al comune, perché se il comune non sa nulla, ovviamente non può mettere il cartello per avvisare le persone. Questo problema, certo. Vabbè, io intanto, guarda, ti posso dire, se fosse successo a me, intanto mettevo io dei bei cartelli, o prendevo un bello spray e scrivevo: attenzione, il mio cane è morto avvelenato. Ma lo sai che è illegale? Vabbè, ho capito, ma è illegale anche che io vado a chiedere aiuto al comune e il comune non mette un cartello. Che cavolo, ma la legalità funziona. Ma prima devi avvisarlo, però. Sì, certo, adesso io in questo poi divento... E poi l'altra cosa dalla quale normalmente non si ricava nulla, però che va fatta anche questo come senso civico per beccare queste persone, è una querela. Quindi andare dai carabinieri e dire: è successa questa roba qua. Adriana, intanto grazie, perché capisco che riraccontare, rivivere questa esperienza non è assolutamente facile. L'ha fatto anche per aiutare delle persone, perché non gli si trovino nella sua stessa condizione. Quindi grazie mille della sua disponibilità. No, però ecco, su questo gruppo Facebook, Adriana, quando lei potrà, o attraverso la sua pagina, inviti le altre persone, se sono ancora in tempo, no? Se ci sono ancora i termini di legge, a fare un esposto ai carabinieri, perché è una cosa molto molto importante anche da questo punto di vista. Grazie, Adriana. In compenso, per tamponare il dolore, ne abbiamo preso un altro. Brava. Un altro cucciolino. Adesso facciamo attenzione a quello che si mangiano nei parchi, esatto. A prescindere da tutto. D'accordo. Comunque, grazie Adriana, grazie mille della sua testimonianza. Buona giornata. Arrivederci. Vedi, perché poi, come si dice, la mamma dei cretini è sempre incinta, quindi gli imbecilli che io vorrei, ma come mi piacerebbe beccarli mentre stanno lanciando qualche boccone avvelenato, perché io non farei mica niente, vado lì, lo prendo e glielo metto in gola. No, vabbè, ma anch'io non devo mai beccare questi qua, perché sennò veramente me ne vado in galera anch'io. No, non puoi, per legge sì, non lo puoi, so che non posso. Io però anch'io non ci andrei. Però voglio dire, adesso, a parte le battute, le provocazioni mie, chiunque li vede, bisogna veramente fare qualcosa, anche perché veramente vi assicuro che uno che ha il coraggio di fare una roba del genere, non si può sapere che altra schifezza può fare nelle mura domestiche, col vicino di casa, sai, ammazzato il vicino di casa perché litigavano per i rumori. Comune, forze dell'ordine, non ti dicano cose tipo dobbiamo anche... occuparci adesso di animali, no, abbiamo altre cose di cui occuparci, invece no, è il vostro dovere intervenire anche. A proposito di animali, tu ci devi parlare dei bisogni dei cani. A quanto tempo abbiamo? Quanto tempo abbiamo, Carmelo? Tre minuti. Allora, l'altra volta abbiamo cominciato a parlare dei bisogni del cane, sono sei categorie di bisogni, abbiamo parlato della prima categoria, è quella di bisogni fisiologici, la seconda sono i bisogni di sicurezza. Quelli fisiologici sono legati alla sopravvivenza del cane, quelli di sicurezza invece sono legati al fatto che il cane desidera sentirsi al sicuro. Cioè, esatto. Dopo aver mangiato, bevuto, dormito e via dicendo, e aver fatto la passeggiata, il cane vuole sentirsi al sicuro. L'altra volta dicevamo, per esempio, attenzione, usate qualche cancelletto dell'IKEA a casa. Si può dire IKEA? Caspita, non lo so, magari metterete... cancelletto, quello per i bambini. Quello per i bambini, esatto, perché a volte i bambini esagerano, quindi il cane si vuole sentire al sicuro. E il cane vuole sentirsi al sicuro, e questo è il motivo anche per cui abbaia il postino, quando il postino viene a portarci le lettere. Quindi mettere, per esempio, se tu metti un pastore tedesco in giardino che ti scava il solco a furia di abbaiare le persone, c'è qualcosa che non va. No, è come dirgli, per favore mi fai la guardia che io ho da fare, guardami un po' quindi non ha senso mettere il cane quali in giardino. Quali sono le cose che fanno sentire il cane sicuro? In sicurezza? È per esempio rimanere da solo in un giardino, il cane, come si dice, bilancia questa sua insicurezza abbaiando alle persone che si affacciano appunto, lì. Appunto, ma io ti ho detto, quali sono le cose che fanno sentire al sicuro un cane? Al sicuro? Beh, per esempio, far vivere il cane in casa è un'ottima idea, farlo stare in giardino soltanto limitatamente, ma anche il nostro comportamento lo può far sentire al sicuro piuttosto che no. Perché alcuni proprietari hanno i 5 minuti, no? Come si suol dire, sì. Perdono la pazienza, per esempio, entrano a casa con la tuta da operaio, il cane gli salta addosso, gli fa le feste, per loro non è nessun problema. Poi escono la sera, vanno a cinema, tornano con il loro vestito che questa volta deve rimanere pulito, il cane gli salta addosso come sempre e loro magari si arrabbiano, no, quindi che cacchio fai, l'incertezza sulle aspettative è qualcosa che causa insicurezza da parte del cane. Stessa cosa succede con noi esseri umani, perché l'altra volta ci divertavamo a fare un parallelo, dicevamo che queste categorie di bisogni sono mutuate dagli studi di Abraham Maslow, presente su ogni libro di psicologia generale. E allora anche gli esseri umani hanno i loro bisogni fisiologici, e alimentazione, sonno e via dicendo, collegati alla sopravvivenza, ma hanno anche la necessità di sentirsi al sicuro. Diciamo che fino adesso tutto quello che diciamo che vale per il rapporto uomo-cane vale anche nel rapporto uomo-uomo. Dove possono, se vogliono sapere qualcosa di più a livello approfondito, dov'è che possono le persone che ci ascoltano andare a leggere o vedere? Allora, possono andare sul mio sito angelovaira.it. C'è addirittura un video girato in collaborazione con il Corriere della Sera, anche su YouTube lo trovano. Sono i sei bisogni fondamentali dei cani. Ne parleremo anche nelle prossime puntate, perché sui prossimi bisogni avremo altre cose da dire. Ci sono per esempio i bisogni sociali, di appartenere al gruppo e via dicendo. Ci sono anche delle differenze più salienti tra quelli di Maslow e quelli per i cani. Bene, amore, io non ti dico di che cosa io ho bisogno, ci sentiamo fra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presento. Domenica, ore 14:30. Voice Anatomy, Radio 24. Non mancate, sarebbe un peccato. Parola di Bond, James Bond. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. È sempre dalla prospettiva degli animali, ma più che altro è dalla prospettiva dell'altro che noi ci mettiamo. Sì, bravissimo. Sai quando si litiga a volte che uno dice, sì, ma prova a metterti nei miei panni. Poi nessuno lo fa. Non ci si riesce mai. Secondo me non è che non ci si riesce, non ci si mette mai. Quando per esempio tu mi fai arrabbiare, io ti dico prova un po' a metterti nei miei panni. Esatto, poi quando te lo dico io anche. È che c'è un po' troppa stoffa che ti avanza qui sulle tette. Che non... No, tu non me lo dici mai perché io no, tu non me lo dici perché mai. Tu lo fai sempre già da sola. Ah, bravo. Esattamente. Ci siamo dimenticati che ma io ho sempre ragione. Ma come ho potuto... Non pensarci prima. Va bene, ma mettiamoci. Stavo aspettando, dicevo, vabbè, arriverà. Scusa, arriverà. I miei panni, i tuoi panni, i miei panni, estesi i panni, non lo so io. Guarda, e ognuno lava i panni sporchi a casa propria. Esatto. Ma aspetta. Noia, che barba, che noia, che barba. Guarda, io vorrei questo jingle dopo come tutto se l'amore ti che prego. Sprigionava dalla telefonata di Carmen Russo, ecco i problemi di casa nostra qua in pubblica piazza. Senti, pubblica piazza. A me piacerebbe avere quel gingolino di che noi e lo metterei come suoneria quando mi telefoni tu. Ah bene. Amore, ma questo è amore. Ma certo, è amore vivo. No, ma non sto proprio scherzando, sono serissima. Questo è amore. Va bene. Prendo appunti. Ma perché prendi appunti? Cerca di sentire dentro che questo è amore. No, dicevo, qualche volta dovremmo parlare, analizzare. Amore di... così grande. Dicevi? Beh. No, dai, allora dobbiamo provare. Già ti immagino lì. Madonna, amore, a modellare un vaso di creta. Sì, ascoltami, io e modello. Io che mi sono dietro di te. Io modello e sono la tua modella. Stiamo scendendo veramente in un trash. Sì, veramente. Che possiamo vincere l'Oscar del trash. Dicevo, perché non facciamo ogni tanto una chiacchiera, non analizziamo, per esempio, tutti i cani famosi del cinema piuttosto tipo, che tipo, i cani famosi ne ho uno. Ne ho uno per il quale mia mamma, per esempio, e tante altre persone scambiano il nome di quel cane per la razza. Ah, sì, lo so già, perché anch'io lo chiamavo così. Anche tu, sì. Eh sì, perché tu dici, no, hai visto questo cane bellissimo, era un Lassie. Esatto. Come se il Lassie fosse la razza. La razza, come dicono molti, la marca. Esatto. No, ma di che marca è? Ti giuro, lo facevo anch'io. Difatti, quando ho iniziato a crescere, dicevo, guarda che bello questo Lassie. E loro mi dicevano, no, ma guardi che è un collie. Dicevo, un no, ma è Lassie. Ma è sarà pure un collie, ma è comunque un Lassie. Comunque un Lassie, sì. Che c'era, fra l'altro, quel film famosissimo, che risale al 1938, e c'era una grandiosa, strepitosa Liz Taylor da bambina, perché lei è una bambina prodigio. Un altro cane fantastico, non so se tu eri troppo piccino, perché ahimè c'hai 10 anni meno di me, ahimè per te, perché io ahimè per te sono più avanti in tutto, quindi già sono più avanti se avessimo la stessa età, pensa, avendo 10 anni di più. Figurati. Rin Tin Tin, chi era? Rin Tin Tin era il famosissimo Rin Tin Tin, cioè, non sai chi era? No, sì, il pastore tedesco, ecco. Del fortino, gli indiani, fa le frecce, lui che faceva tutte le cose. E Pluto? Pluto è quello di Walt Disney, no? Sì, di Topolino. Topolino, cioè il cane. Che poi in realtà c'è Pippo e Pluto, che sono lo stesso cane, solo che una volta ha le sembianze umane e un'altra volta invece... È vero, Pippo però è vestito, Pluto invece fa proprio il cane, mentre Pippo è un cane parlante, però un cane è lo stesso attore, no? Lo stesso attore cane che interpreta prima se stesso e poi l'essere umano vestito con... cosa aveva? Una salopetto, mi sembra. Sì, delle bretelle, ma non me lo ricordo. Linus... Linus, come Linus? Snoopy. Che pirla che sono, sì, Snoopy. Linus infatti, è quello della copertina. Allora, tu devi sapere che mentre io scrivevo Linus, ho detto, eppure Linus, a me mi sembra, Snoopy si chiama, il cane Snoopy, di Linus. Snoopy, saggissimo Snoopy. Saggissimo Snoopy. Tra l'altro c'è un misunderstanding, allora Snoopy lo si associa ad un beagle, al cane di razza beagle. Ah, e invece? E tutti quanti pensano che i beagle siano così. Cioè dei cani teneri, tranquilli, che amano oziare, mentre il beagle è un cane che invece ti tira fuori scemo, perché praticamente è un cane da lavoro, che vuole correre, fa questi latrati quando corre dietro gli altri cani, spesso scappa, non ascolta al richiamo, insomma sono cani che tirano al guinzaglio, che annusano ovunque, sono dei cani veramente da domare, da quel punto di ma vista. Ma quindi non è un beagle Linus, che razza è? Guarda, molti lo associano al beagle, io poi secondo me non è neanche troppo un beagle, però non so il disegnatore se avesse in mente un cane di razza, indagheremo. Senti, comunque una delle vignette più fantastiche di Snoopy è: che cos'è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. Vedi che era saggio. Sì, era saggio, proprio saggio. A volte fa anche molto molto ridere. Mentre una volta ci ha chiamato un cliente, no? Io lavoravo con dei colleghi, ci fa: allora guardi, io vorrei il mio cane che ho appena preso un pastore tedesco, vorrei che me lo facesse diventare bravo come Rex. Ma veramente? Giuro, ma tante persone hanno adottato il pastore tedesco poi vedendo, guardando Rex, che poi è stato un investimento da parte della società amatori pastori tedeschi, tedesca. Loro hanno guadagnato tanto da questa cosa. Beh, però prima di Rex c'era Rintintin, quindi ero più affezionata a Rintintin. No, perché diciamolo, una volta il pastore tedesco di oggi non è quello di una volta. Sì, cioè, quando, sì, quando io ero bambino, metà dei cani erano pastori tedeschi. I pastori tedeschi erano veramente dei cani della Madonna. Sì, ma sono stati sfasciati dal lavoro con pazienti, miti, adattabili a tutto quanto, facevano la guardia, facevano la difesa, erano intelligentissimi. Poi questa spinta fortissima verso lo standard di razza, la bellezza, eccetera, li ha fatti diventare invece dei cani un po' più fragili. No, ma poi poveracci che camminano con il sedere dietro, con molle, con le zampe dietro. Madonna, dietro, poverini, pensa, veramente. Pensa all'uomo quando ci mette le mani, che schifezza che fa. Un'altra frase fantastica di Linus, che mi rappresenta... Scusami, e la conseguenza è stata che oggi i pastori tedeschi non sono più così tanti, no? In giro. Sì, certo. Proprio per questo motivo qua. Dicevo, quindi, un'altra frase perfetti. Fantastica di Snoopy è: non si può piacere a tutti, ma si vive benissimo lo stesso. Questa sono io. E con ciò poi un altro... Allora, sai chi era Idefix? Razza fantasia. Idefix, Obelix. Bravo, era il cane di Obelix. Beh, ma sei andato per associazione della X. La X, esatto. Idefix. Quindi Idefix era il cane di Obelix, però sai che lo conosco poco. Cioè, cosa faceva di particolare questo cane? Eh no, stava sempre in braccio a Obelix. Stava sempre in braccio? Ma non lo ma so. Ma aveva bevuto non... anche lui la pozione magica? Chi può dirlo? Senti, chi sono Pongo e Peggy? Pongo e Peggy non sono cani, altri cani della Walt Disney? Sì, che cosa? Pongo e Peggy, Carica di 101? Bravo! Aha! E chi sono Lilli e Biagio? Lilli e Vagabondo, no? Biagio chi è? Il vagabondo, esatto. Bellissimo. Vabbè, insomma ragazzi, ce ne sono tantissimi. Se ci scrivete, ci segnalate qualche cane famoso, ma non solo dei fumetti, o che ha fatto vabbè c'era quel cane, adesso uno degli ultimi film di qualche anno fa era quel film in bianco e nero fantastico, che ha vinto l'Oscar poi l'attore francese, come si chiamava? Come? The Artist. Che sì, il cagnolino, che se non ricordo male era un Jack Russell a pelo ruvido, è risultato il più forte di tutto il film. The Artist è un film fantastico, in bianco e nero, muto, fatto come... Pensa, si l'ho visto, ma sai che non mi ricordo del cagnolino. Perché ti sei addormentato sul divano come al solito, amore. Ma cosa stai dicendo? Non ma ho proprio guardato neanche secco con sul divano con la bolla alla bocca. Ah, sì. Sì, sì. Ti dico di sì, io c'ero. Tu c'eri, almeno mi ricordo. Meno male, perché se c'era solo un'altra, in bianco e nero, gli spezzavo le gambine. Senti, vabbè, anche una domenica è passata, adesso abbiamo un attimo divagato, ogni tanto vogliamo alleggerire le non parlare solamente di... e parlare anche di cose belle, a parte, vabbè, in questo caso ricordare tutti i cani famosi nei film, nei cartoni animati. Però è bello a volte. Tra l'altro, anche sai che non era... cioè, per esempio, Rintintin, Lassie, mm-hmm, il cane di Balla coi lupi, il lupo, mm-hmm, di Balla coi lupi, te lo ricordi? Two Socks. Ecco, non è... quei cani lì non sono un cane. Sono tanti, sono diversi, sì, che vengono a seconda delle riprese che devono fare, cambia il tipo di cane. Pensa te. Sì, oppure nel tempo anche. Non no? So se è sempre così. Perché adesso c'è stato... potrebbero un film... farlo con gli attori. Cos'era, una iena? C'è stato un... ah no, sei tu quella. Ah, sei tu quella che pensavo fosse il verso di una iena. Con la cadrega. Con la cadrega. No, dicevo, sarebbe bello anche con degli attori cani, non dei cani attori, degli attori cani, sì, avere il sostituto che interpreta meglio una scena piuttosto che un'altra. E con questa pillola di saggezza, buona domenica a tutti. Mi raccomando, rimanete su Radio 24, perché la domenica con Radio 24 è molto più piacevole. Per la famiglia. Per la famiglia. Chiedimi se sono felice, @radio24.it. Buona domenica a tutti, ci vediamo domenica prossima. Ciao!